Letture di Radio 24. Gli artisti che realizzarono grandi cicli di mosaici e affreschi a soggetto sacro nelle chiese italiane si limitarono solamente alla realizzazione delle storie raffigurate. Solitamente queste storie erano scritte da pontefici, vescovi, abati, priori, padri generali degli ordini, che stabilivano, con l'aiuto di teologi di fiducia, cosa dipingere sulle pareti dei luoghi di culto. Ma su cosa si basavano poi gli artisti per la loro realizzazione? Nessuno dei grandi cicli di mosaici e di affreschi a soggetto sacro che vediamo rifulgere nelle chiese italiane furono concepiti dagli artisti. Gli artisti si limitarono, diciamo così, a realizzare storie e idee figurative concepite da altri, e questi altri erano sovente i pontefici, i vescovi, gli abati, i priori, i padri generali degli ordini, che affiancati e assistiti da teologi di loro fiducia stabilivano nei minimi dettagli che cosa dipingere sulle pareti dei luoghi di culto. Era compito loro, ad esempio, indicare esattamente quali episodi della vita di Maria o di Gesù si dovessero selezionare, oppure quali fatti e miracoli di un santo si dovessero evidenziare. E spesso si entrava anche nello specifico di come andassero raccontati i singoli episodi. Pittori e mosaicisti entravano in azione quando le decisioni iconografiche erano prese e le mettevano in figura. Su che cosa si basavano? Senz'altro su meticolose descrizioni verbali o scritte fornite dai committenti, ma qualche altra volta potevano anche contare su modelli, ovvero disegni, miniature o ricami, che contenevano chiare indicazioni su come procedere. A questa regola non sfuggì ovviamente uno dei cicli d'affreschi più imponenti e celebri di tutta l'arte italiana, le storie di San Francesco nella Basilica Superiore di Assisi. Chi indicò a Giotto la selezione di episodi della vita del santo da rappresentare? E chi indicò come andavano impaginate e realizzate le singole scene? Sino ad oggi si sapeva che la fonte scritta su cui sono basate le storie è la Vita di San Francesco, redatta da San Bonaventura da Bagnoregio, mentre è ormai unanimemente accettato che il committente del ciclo sia stato Niccolò IV, il primo papa francescano della storia, che regnò dal 1288 al 1292. Ma come fece il Papa a trasmettere dalla sede di Roma ai confratelli in Assisi gli ordini figurativi su cui basare le storie francescane da affrescare sulle bianche pareti della Basilica Superiore? Chiara Frugoni, notissima studiosa di arte e civiltà francescana, lo ha brillantemente intuito affidando a un saggio le sue intrigantissime conclusioni, degne di una piccola spy story artistica. Vediamo i fatti. Dopo un conclave lungo e travagliato, così lungo e travagliato che un terzo degli elettori fece in tempo a morire prima di vederlo concluso, nel febbraio del 1288 venne finalmente eletto il nuovo papa. Era il frate Gerolamo d'Ascoli, un francescano, il primo fraticello a sedere sul trono di Pietro. Appena consacrato, il nuovo papa, che si era scelto il nome di Niccolò IV, indirizzò ai confratelli in Assisio una bolla piena di affetto, allegandovi un po' di denaro e alcuni preziosi regali, pescati, disse, tra le cose in suo possesso, in particolare paramenti sacri e argenterie da usare nelle liturgie. Un anno e mezzo dopo, il 7 agosto 1289, spedì ad Assisi una nuova bolla e questa volta la fece accompagnare da un dono ben più impegnativo, realizzato appositamente per l'occasione. Si trattava di uno spettacolare paliotto ricamato con oro e argento e trapuntato di perle. Dalla bolla si intuisce che la funzione di questo strepitoso aurifrisium fosse quella di ornare il punto più sacro della basilica, la tomba del santo. Ma che cosa raffigurava il paliotto? Ce lo dice l'inventario dei beni redatto nel 1388. L'aurifrisium era ornatum cum historia beati Francisci, cioè vi erano ricamate sopra le principali vicende della vita di San Francesco, vicende che il Papa e i suoi teologi avevano iconograficamente definite a Roma e poi inviate ad Assisi attraverso il grande ricamo, un oggetto facile da trasportare, destinato ad abbellire ed esaltare la tomba del poverello. Attenzione, quando l'aurifrisium venne collocato davanti alla tomba del santo, siamo nel 1289, le pareti della Basilica Superiore erano ancora tutte bianche. E qui sta il punto. Secondo Chiara Frugoni, i soggetti che vennero scelti per gli affreschi delle storie francescane derivavano direttamente dal paliotto mandato dal Papa ad Assisi. In altre parole, il Papa usò quel paliotto come modello per indicare ai pittori che cosa raffigurare sulle pareti della Basilica Superiore. Le prove di tale affermazione, racconta Chiara Frugoni, stanno nelle curiose vicende che videro protagonista il paliotto stesso. Dopo oltre un secolo di onorato servizio, il ricamo di Niccolò IV iniziò a deperire. Già nel 1430, ce lo dice un inventario, l'aurifrigium pontificio appariva molto compromesso e mancavano all'appello 126 perle, tra grandi e piccole. Al principio del Seicento la situazione di precarietà dovette farsi drammatica, visto che il drappo venne spedito a Roma per tentare un restauro. Evidentemente il restauro riuscì, perché a metà del Seicento il paliotto non solo esisteva ancora, ma per nostra fortuna finì al centro di una bizzarra polemica di sartoria ecclesiastica. Nel 1648 il francescano conventuale Niccolò Catalano si era messo in testa di dimostrare che San Francesco era vestito ab origine con l'abito dei conventuali, contrassegnato dal cappuccio tondo e dalla mantellina sul davanti, e questo in rovente polemica con il frate cappuccino Zaccaria Boverio, che invece sosteneva che Francesco aveva sempre indossato il cappuccio a punta tipico dei cappuccini. Per supportare la bontà delle sue tesi, il frate Catalano aveva fatto incidere da Giovanni Paolo Zampa due scene cavate dall'antichissimo e malandato aurifrisium di Assisi. Senza saperlo, il frate Catalano aveva compiuto un gesto profetico. Di lì a poco, il paliotto di Assisi sarebbe andato definitivamente in frantumi e quelle due incisioni sarebbero rimaste le uniche testimonianze superstiti del celebre manufatto assisiate. Ebbene, proprio osservando queste due incisioni, Chiara Frugoni è giunta al dunque. La figura del santo nell'episodio della morte di Francesco, cavata dall'aurifrisium e riprodotta nell'incisione seicentesca, corrisponde esattamente al santo riprodotto nella morte di Francesco ed anche nell'accertamento delle stimmate affrescati sulle pareti della basilica. Un indizio troppo potente per non arrivare a un'ipotesi conclusiva, che il paliotto di Niccolò IV, giunto solennemente da Roma ad Assisi nel 1289, possa essere considerato davvero la fonte dell'ispirazione papale per gli affreschi con le storie di San Francesco, che gli storici più accreditati ci dicono realizzati tra il 1290 e il 1297. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Marco Carminati all'interno della Domenica del Sole 24 Ore, in edicola oggi. Quattro anni fa, il pubblico ministero Ilda Boccassini fece arrestare 15 presunti brigatisti del Partito Comunista Militante. Allora fu accusata di aver eseguito una operazione politica volta a spegnere le voci del dissenso, ma trovò il plauso dei vari Vittorio Feltri, Renato Farina e Alessandro Sallusti, che la definirono bravissima. Gli stessi oggi la accusano di essere soccorso alla sinistra e di montare un processo da inquisizione, perché in questi giorni è tra gli accusatori del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi nel caso Ruby. Sull'Espresso Marco Travaglio commenta ironicamente: ha messo d'accordo le brigate rosse e quelle azzurre. Quattro anni fa, 12 febbraio 2007, il PM Ilda Boccassini fece arrestare dal GIP Guido Salvini 15 presunti brigatisti del Partito Comunista Politico Militare e ne indagò altri 4. Progettavano attentati al giuslavorista Pietro Ichino, a una delle residenze di Berlusconi, quella in via Rovani a Milano, alla sede milanese di Forza Italia, al palazzo di Mediaset a Cologno Monzese e alla redazione di Libero. Indagati e arrestati gridarono all'operazione politica volta a spegnere le voci di dissenso e si dichiararono perseguitati politici. Infatti due di loro, i fratelli Toschi, erano assistiti dall'avvocato Piero Longo, lo stesso di Berlusconi. Un documento su internet accusò di furia anticomunista la Boccassini, che commentò divertita: «Mi viene da ridere, perché spesso mi sono sentita dire tutt'altro». Negli ultimi 10 anni il Cavaliere e i suoi sostenitori l'avevano accusata di tutto: toga rossa, golpista, falsificatrice di prove, subordinatrice di testi e così via. Nel 2007, invece, dopo lo scampato pericolo, il direttore editoriale di Libero, Vittorio Feltri, disse: «Grazie a magistrati e polizia. lo stesso Feltri che nel marzo 96 scriveva sul giornale: «Ilda Boccassini è troppo per il mio grado di tenuta nervosa. Non giudicatemi male. Con lei non salirei neppure in ascensore». E giù insinuazioni sul movente politico dell'inchiesta su Berlusconi, Previti e le toghe sporche romane. Tra poco vi saranno le elezioni. Difficile credere che sia solo una coincidenza. Dati i personaggi, più che scandalo, questo sarà archiviato come un impiastro. Alla puttanesca. 11 anni dopo, all'indomani del blitz anti-BR, Feltri esaltò sul Libero i meriti della magistratura, nelle persone della dottoressa Boccassini e del dottor Salvini, che, grazie al suo intervento, permette un brindisi al posto di qualche funerale. Il suo condirettore, Renato Farina, che aveva vomitato insulti e accuse a Ilda quando si occupava del Cavaliere, turibolò elogi alla rete tesa da Ilda Boccassini, bravissima. Insomma, per qualche giorno, Libero divenne l'Hausorgan della Procura di Milano. E sapete chi era, all'epoca, il direttore responsabile? Alessandro Sallusti, il quale oggi, direttore del giornale, accusa la Boccassini di soccorso alla sinistra, agguato al premier con violenza fisica e psicologica, giustizia politicizzata per abbattere il governo, di tenere Berlusconi nel mirino da 16 anni con odio malcelato, di spiarlo nella sua vita privata, minacciare lo Stato italiano, di essere un PM fuori controllo, di montare un processo da inquisizione, di violare leggi e regole. E Feltri, di nuovo direttore editoriale di Libero, la accusa di aver ordito una persecuzione per fare secco il premier. E il suo giornale aggiunge che è arcinemica del Cavaliere, è come la FIOM, ammazza il segreto istruttorio e conduce abusivamente l'inchiesta. Ma non era bravissima. Appunto. Infatti ha messo d'accordo le Brigate Rosse e quelle Azzurre. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Brigate Rosso-Azzurre di Marco Travaglio dall'Espresso del 3 febbraio.